Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. La prima generazione di biocombustibili come biodiesel e bioetanolo, sostituti rispettivamente del gasolio e della benzina, si sono rivelati poco sostenibili, con la sola eccezione dell'etanolo da canna da zucchero. Questo perché, da un lato, le coltivazioni energetiche sottraggono terreni alle coltivazioni alimentari, creando un'insana concorrenza tra cibo ed energia. E dall'altro perché, alla fine, la natura non è abbastanza efficiente per i nostri bisogni. Basta ricordare che una pianta come il mais riesce a convertire in biomassa meno, anche molto meno dell'1% dell'energia solare incidente, mentre un pannello fotovoltaico arriva tranquillamente al 20% di efficienza, e noi abbiamo bisogno di moltissima energia. La coltivazione di biomassa a scopo energetico però ha ancora parecchie frecce al suo arco per diventare più sostenibile, e molti ricercatori credono che la chiave, diciamo così, del successo finale, in realtà ci sono vari stadi, prime, seconde, terze, quarte generazioni, ecco, ma la chiave del successo finale passi per la coltivazione di alghe, magari potenziate dalla tecnologia. Come? Beh, ce lo facciamo spiegare da Thomas Morosinotto, che è ricercatore del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova ed è esperto di fotosintesi. Buonasera Morosinotto. Buonasera a tutti. Allora Morosinotto, senta, intanto perché le alghe? Partiamo da qui. Allora, le ragioni secondo me per provare a utilizzare le alghe sono di due ordini. La prima è che le alghe sono degli organismi unicellulari e quindi, se messe in condizioni ideali, sono capaci di sostenere dei tassi di crescita elevatissimi. E la seconda ragione è che possiamo immaginare di coltivare le alghe in tutte quelle aree che non possiamo dedicare all'agricoltura, come zone aride, deserti o aree poco fertili, o addirittura anche gli oceani, se riuscissimo a costruire delle strutture offshore. Certo, che le tengono lì dentro sostanzialmente. Quindi possiamo andare nei deserti dove c'è tanta luce, che fa comodo quando bisogna far crescere delle piante, oppure addirittura usiamo gli specchi d'acqua che sono abbondanti, insomma, sul pianeta. Senta, ecco, però oggi si stanno facendo esperimenti, si usano alghe, ci sono molti laboratori in giro per il mondo che usano le alghe per cercare di produrre biocombustibili prevalentemente. Però questi biocombustibili hanno ancora oggi dei costi di produzione, nonostante queste caratteristiche delle alghe, molto elevati. Allora, come si fa a competere con i fossili? Prima di tutto bisogna dire che mentre abbiamo migliaia di anni di esperienza come uomini nella coltivazione delle piante, invece sta cercando di coltivare le alghe da pochi anni. L'altra cosa che dobbiamo fare, anche qui prendendo l'esempio della storia dell'agricoltura, è migliorare questi organismi. Quindi noi prendiamo degli organismi presenti in natura e dobbiamo cercare di migliorarli per renderli più produttivi, quindi più adatti ai nostri scopi. E questo vuol dire selezionare magari qualche alga che non abbiamo ancora scoperto che esiste, no? Più produttiva delle altre, ma soprattutto fare quello che fa esattamente lei. Difatti quello di cui ci occupiamo noi in laboratorio è cercare di migliorare l'efficienza della fotosintesi, okay, in questi organismi, quindi di renderli il più efficienti possibile nell'utilizzare la luce del sole e convertirla in biomassa. Ecco, da dove partiamo? Io prima ho parlato di meno di un 1%, ma con una pianta di mais in pianura padana, quanto è efficiente e quanto invece potrebbero essere efficienti un domani delle alghe, però modificate, poi ci dice anche come? Beh, una pianta di mais in Italia ha un'efficienza di utilizzo della luce ben sotto l'1%. Noi con le alghe riusciamo a raggiungere in condizioni di laboratorio fino al 4% di efficienza, mentre fuori, quindi in condizioni di produzione, si raggiunge attorno all'1-2% a seconda delle condizioni. Il nostro approccio è quindi da una parte migliorare l'efficienza di coltivazione per aumentare l'efficienza fotosintetica. Cioè banalmente fare in modo che tutti questi organismi, queste alghe, poi sono per lo più sono organismi unicellulari, che siano tutti illuminati bene, dico una cosa banale, ma è importante se si vuole avere un processo efficiente, no? Esattamente, fra l'altro anche una delle cose più complicate, fare in modo che la luce si distribuisca in modo omogeneo in queste colture algali. L'altro aspetto invece è migliorare gli organismi geneticamente per renderle più produttive in queste condizioni particolari, artificiali, dove noi le vogliamo coltivare. Ecco, a quanto si potrebbe arrivare di efficienza? I pannelli fotovoltaici arrivano al 20, la fotosintesi a cosa potrebbe arrivare? Allora, il massimo a cui la fotosintesi naturale può arrivare è il 12%, quindi realisticamente possiamo immaginare di arrivare al 5-6%. È comunque 5-6 volte quella che si ottiene oggi? Rispetto alle piante è molto di più, perché le piante alle nostre latitudini funzionano attorno al 0,2-0,3%. Ecco, voi in particolare su che cosa state lavorando? Perché lei si occupa esattamente di questo tema, di aumentare l'efficienza della fotosintesi nelle alghe. La ricerca che facciamo è appunto trovare, identificare i geni che poi ci permettono di aumentare la produttività. L'avete già delle fatto, alghe. No? In qualche Quindi modo. Sì. Certamente, abbiamo già identificato alcuni di questi geni che ci hanno permesso di aumentare la produttività di queste alghe. Ovviamente per riuscire ad raggiungere i risultati, l'efficienza di cui abbiamo parlato prima, bisogna combinare molte modificazioni positive. Quindi abbiamo identificato alcuni di questi geni, adesso dobbiamo combinarli. Avete anche modificato alcuni organismi, avete visto che la cosa più o meno insomma funziona, o sbaglio? Sì, a scala di laboratorio non riusciamo appunto a migliorare la produttività delle alghe a seconda delle condizioni, dal 20 al 30%. Va bene, grazie. Grazie Thomas Morosinotto. Grazie a voi, buonasera a tutti. È tutto anche per questa sera, ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.